Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Buongiorno, attenzione perché tutti i bambini devono essere a scuola entro le 8. I medici di famiglia oppure i pediatri aprono alle 9, alcuni aprono alle 10 e si fa fatica questo periodo a chiamare qualcuno. Sono stati mandati a casa due bimbi in età materna, scuola materna, per avere il naso che cola. Ora, se superano i 3 giorni devono farsi fare un certificato dal pediatra, ma il pediatra, nel caso che è successo proprio nella scuola di mio figlio, il pediatra si è rifiutato di fare il certificato perché secondo loro non era da tampone, ma non era neanche un bambino che poteva tornare in classe. Dottor Spezia, la differenza tra le misure assistenziali, poi la pensione di invalidità e il reddito di cittadinanza sono enormi. Il reddito di cittadinanza, se non è accompagnato da delle proposte di lavoro, diventa un'eterna assistenza e si scontra col mio diritto alla pensione che doveva essere praticamente raggiunto a 35 anni e oggi invece la mia aspettativa di lavoro è di altri 9 anni e quindi devo lavorare a 44. No, ma sul fatto che ci sia una netta differenza come misura assistenziale tra il reddito di cittadinanza e la pensione di invalidità siamo perfettamente d'accordo. Quello a cui si riferiva Di Maio e la cosa sulla quale concordo è che sull'abuso di questi strumenti assistenziali non c'è grande differenza, è una sottrazione di risorse comunque. Molti sono gli abusi sulle pensioni di invalidità e lo sappiamo perfettamente. E allora il ragionamento è: se si vuole criticare il reddito di cittadinanza, magari leggeremo qualche critica oggi in rassegna stampa, non è per gli abusi che ci sono che deve essere criticato, ma proprio per come è strutturato come misura. Tutte le perplessità che solleva, l'assenza, lo dicevamo prima, di tutta la parte dedicata alle politiche attive del lavoro. Lo scarso funzionamento dell'ANPAL, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive, e tutti i dubbi su chi la guida, il famoso professore del Mississippi, Mimmo Parisi, del quale molto si è parlato, i suoi viaggi in business per tornare negli Stati Uniti. E forse si potrebbe anche parlare del fatto che l'ANPAL, sempre l'Agenzia per la Promozione delle Politiche Attive del Lavoro, che finora ha fatto decisamente poco, e bisogna dirselo, ha richiesto tramite Recovery Fund 11 miliardi e mezzo per rivedere le politiche attive del lavoro. Sono tra le proposte piovute sul tavolo del ministro Enzo Amendola. 11 miliardi e mezzo. Poi però li dovremo controllare se veramente arrivano. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, per le vostre voci che ci testimoniano ancora una volta quali sono le difficoltà con la questione degli ingressi a scuola, dei bambini malati e via dicendo. La seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, sono le 7:22 minuti ed è venerdì 18 settembre. Venerdì! Le prime pagine dei quotidiani, il giornale si dedica proprio alla questione dei fratelli Bianchi, accusati dell'assassino di Willy Montero Duarte. Reddito di criminalità è il titolo, pioggia di soldi ai delinquenti, sussidio grillino percepito anche da spacciatori di droga, terroristi, mafiosi e ladri. La verità è il fatto quotidiano su due fronti opposti, ossia il tema è l'inchiesta sulla Lega. La verità scrive: commercialisti della Lega arrestati, quelli del PD e dei 5 Stelle graziati. Un PM di Roma chiese i mandati per 3 notissimi professionisti sponsorizzati dai partiti di governo, ma i superiori glieli negarono con motivazioni contraddittorie. Il fatto quotidiano invece si sofferma sui soldi della Lega. Lega, riciclaggio e Siri è di nuovo indagato. Oltre a Genova, la caccia del tesoro leghista, c'è anche Milano, movimenti rilevanti su 100 conti legati alla fiduciaria Fidireb fino a 50 milioni. La stampa, Cirio batte Azzolina, la febbre si misura a scuola, è il titolo di apertura con il Corriere della Sera che anche è dedicato a questo. L'apertura del Corriere è la febbre si misura a scuola, appunto. Sulle regionali si è aperta l'apertura della Repubblica, la battaglia sull'Arno. Il manifesto sul tema del lavoro, forse lavoro, CGL, CISL e UIL in piazza oggi in tutta Italia. Arriva l'influenza, corsa al vaccino, è il titolo del quotidiano nazionale. Sud dimenticato, a rischio il taglio del costo del lavoro. Anche il Messaggero si sofferma sui temi economici, così come fa ovviamente il Sole 24 Ore, che parla di un rally dei BTP. Prezzi su fino al 26%. Iniziamo da qualcosa, come vi dicevo e come sempre facciamo, di diverso, notizie che troviamo magari solo su singoli giornali, come il caso di quella che viene richiamata anche in prima pagina sul Corriere della Sera, ed è una sentenza che, pur trattando solamente di una riduzione di pena, impressiona per le motivazioni. Ridotta la pena allo stupratore, racconta Luigi Ferrarella a pagina 21. I giudici, la vittima era troppo disinvolta. L'aveva sequestrata per una notte nella loro roulotte, picchiata e violentata fin quando alle 7 del mattino erano arrivati i carabinieri allertati dalla figlia. E per questi reati era stato condannato in tribunale a Monza il rito abbreviato a 5 anni, che ora a Milano la Corte d'Appello abbassa a 4 anni e 4 mesi, con un verdetto nel quale più della limatura di pena in sé risalta la motivazione, e cioè l'idea che, sentite qua, in un contesto familiare degradato e caratterizzato da anomalie quali le relazioni della donna con altri uomini, l'intensità del dolo di quei 3 reati sia attenuata dal fatto che l'uomo mite fosse stato esasperato dalla condotta troppo disinvolta della donna, condotta che aveva passivamente subito sino a quel momento. Poco prima della mezzanotte dell'8 giugno 2019 a Vimercate, provincia di Monza e Brianza, il 63enne imputato romeno, insultando e inveendo contro la 43enne connazionale convivente alla quale imputava tradimenti con uomini conosciuti su Facebook, la minaccia di morte. Le punta un coltello al viso, le strappa di mano e getta il telefonino a terra, la percuote con un tavolino di legno, la prende a pugni al viso e all'occhio sinistro mentre lei urla «ti prego, fermati», la schiaffeggia a mano aperta, le assesta altri pugni al mento e alla schiena così forti da farle mancare il fiato, la trascina per i capelli, la getta sul letto e appunto la violenta fino alle 7 del mattino. E dunque l'uomo viene condannato, ma i giudici decidono, concordano con la tesi della difesa, che l'uomo era un soggetto mite e forse esasperato dalla condotta troppo disinvolta della convivente che aveva passivamente subito fino a quel momento, il che, se certo non attenua la responsabilità, per i giudici è tuttavia indice di una più scarsa intensità del dolo e della condizione di degrado nella quale viveva la coppia. E questo è il racconto che ci consegna Luigi Ferrarella. A proposito di donne, c'è solo sul Manifesto, a pagina 6, una storia che ci racconta Gilda Mossier e che arriva da una scuola della provincia di Brindisi, De Amicis San Francesco di Francavilla Fontana. Cosa succede? Succede che la preside Adelaide D'Amelia ha imposto agli studenti di elementari e medie la divisa, ma non il grembiulino che si usava negli anni 60 e 70 per nascondere le differenze di ceto e aiutare l'integrazione, bensì pantaloni, giacca e cravatta con logo per i maschi, gonna, camiciola e collant per le femmine. Quando poi, alle proteste dei genitori, la dirigente scolastica ha opposto le proprie motivazioni, ha mostrato in tutta la sua evidenza, scrive Gilda Mossier, l'arretratezza culturale e l'inadeguatezza di alcune scuole nostrane. L'idea di parte l'idea di far indossare dei collanti alle bambine con temperature record come quelle registrate ancora ieri in Puglia, quello che le famiglie non accettano è la distinzione sessista tra i bimbi, un'intenzione questa divenuta più chiara quando la preside, dopo aver rassicurato i genitori circa i costi delle divise che saranno ammortizzati nel medio periodo perché la gonna è lunga fino al ginocchio e ha l'elastico regolabile, i collanti potranno essere sostituiti con calzettoni o calzini blu e il logo sulle camicie dei maschietti di cui si potrà fare a meno lasciando solo quello sulle cravatte, ha spiegato che quanto allo stereotipo di genere, ricordo che lo stesso ministro dell'istruzione Valeria Fedeli abbia emanato una direttiva invitando alla differenza di genere nel linguaggio giuridico della pubblica amministrazione. Poi ancora, l'uguaglianza formale e sostanziale tra bambine e bambini lascerà comprendere, anche attraverso la gonna indossata a scuola, che il corpo femminile richiede profondo rispetto e ossequio della sua dignità e personalità. Voglio arrivare, ha concluso la dirigente, a che il maschietto dica alla femminuccia: copriti, c'è il vento, si può alzare la gonna. Così sul manifesto Giada Mossier a pagina 6. Spostiamoci a questo punto, direi, su questioni che riguardano i minori ancora, però minori in grave difficoltà. Avvenire decide di dedicare l'apertura a questi bambini, a tutti gli effetti, bambini o quasi adolescenti, minori arruolati dalle 'ndrine, ossia dall''ndrangheta. Ebbene, se questo è un fenomeno che avevamo visto in tutta la sua forza esplodere su alcune piazze di spaccio, soprattutto del napoletano, ebbene, apprendiamo da Avvenire Oggi che intervista Roberto Di Palma, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, lo vediamo esplodere anche a Reggio Calabria. Droga, risse, bande criminali, l'età media è scesa a dismisura. I padroni delle strade oggi sono poco più che adolescenti, scrive Federico Minniti, appunto in questo pezzo a pagina 4 di Avvenire, nel quale si racconta anche una storia, la storia che ha portato ad un'indagine. Quando una donna, la madre di un tredicenne poi segregato e malmenato, ha deciso di denunciare. Era poco più di un bambino, ha scritto il GIP, e aveva avuto la colpa, o forse era stata soltanto una leggerezza, di vendere le sostanze a un luogotenente della gang avversaria. Per questo era stato punito pesantemente. È proprio il mix micidiale di droga e crimine, la promessa di fare soldi in fretta e magari di scalare velocemente le gerarchie dei piccoli clan, ad attrarre sempre più minori che abboccano all'esca esposta con grande abilità dalle cosche. E qua riporta ancora una volta a venire questo protocollo che è stato firmato, ne abbiamo parlato altre volte, è un progetto sostenuto dalla Conferenza Episcopale con i fondi dell'8 per 1000, una rete che salva madri e figli. Il protocollo si chiama Protocollo Liberi di Scegliere. Le donne di 'ndrangheta o mafia che vogliono lasciare il loro territorio e le famiglie in cui vivono trovano una rete di magistrati, di psicologi, un gruppo di formatori che consente loro di essere accolte con amore, di essere ascoltate, accompagnate da persone che hanno la sensibilità necessaria per prendersene cura. Una pausa, ci ritroviamo tra un attimo, parliamo tra le altre cose ovviamente di Covid e sì, poi un po' di politica, visto che siamo a ridosso del voto. A tra poco. State ascoltando un programma offerto da Il lavoro cambia, cambiamolo in meglio. Inaz.it. Mattino. Poiché di abusi ne avevamo già tanti, aggiungere il reddito significa avere aggiunto abusi. Limitavamo gli abusi e con i soldi che avanzavano facevamo il reddito. Buongiorno Simone, sono Marcello da Brescia, provincia di Brescia. Proprio ieri c'è stata una novità nel nostro plesso scolastico, nel senso che quando un bambino viene mandato a casa oppure da casa ha sintomi Covid, la scuola ha rilasciato un documento con il quale si può recare nelle strutture che sono state realizzate al Brixia Forum e dalla settimana prossima nella zona del vecchio parco giochi all'uscita di Brescia Centro, dove si fanno tamponi rapidi. Ed ecco qua, come si può provare a risolvere abbastanza rapidamente la cosa. Certo, sarà una situazione, come diciamo, molto diseguale nelle scuole da una parte all'altra d'Italia. Sul reddito di cittadinanza invece ribadisco quello che dicevo, non è una questione di essere d'accordo o meno con il reddito di cittadinanza, è che qua parliamo di famiglie, le famiglie in questo caso i fratelli bianchi, gli stessi fratelli bianchi, accusate in sostanza di aver frodato il fisco. Quindi il problema è alla base, il problema è la falsa dichiarazione dei redditi, a fronte di redditi tra l'altro forse in parte di origine non proprio chiara, che tu non dichiari al fisco e quindi ottieni una serie di diritti, tra cui nella fattispecie il reddito di cittadinanza. Ma il problema sta a monte, cioè il problema non è nel reddito di cittadinanza, il problema è a monte, quello che dicevo. Poi appunto le altre critiche al reddito di cittadinanza ovviamente ci possono stare, sono tutte interessanti e sono tutte da approfondire. E vorrei invece brevemente raccogliere e però insieme respingere l'osservazione che fa Christian da Bergamo, il quale dice certo che può evitare di fare la lettura della violenza su quella povera donna, quella che abbiamo raccontato poco fa, quella della sentenza alla quale ci riferisce Luigi Ferrarella su Corriere della Sera. Poteva limitarsi a molto meno. Le dico, Christian, che normalmente non mi piace e non ci piace qua a Radio 24 indulgere nei dettagli più crudi della cronaca, e però in questo caso mi sembrava un importante per tutta una serie di motivi. Innanzitutto perché questa sentenza di riduzione della pena, questa decisione sulla riduzione della pena grida vendetta anche per questo motivo, anche per come si sono svolti i fatti. E dall'altra parte, con tutto i giudici potranno avere le loro ragioni, per carità. E dall'altra parte perché forse serve anche a dare la misura a tutti noi che viviamo in famiglie nelle quali la violenza nei confronti delle donne non c'è stata o non l'abbiamo vissuta, e beh, ci può dare la misura di cosa succede in certe case e in certe situazioni e darci un po' una rappresentazione anche d'immagine, come dice lei, di quello che succede. La politica, devo dire la verità, oggi è molto legata più che alla questione delle regionali, sulle quali certo trovate infinite pagine, alle battaglie interne ai vari partiti, anche qua trovate infiniti retroscena. Pensate solamente a quello che scrive il Foglio con questo suo titolo, il lunedì del PD, ossia il lunedì dopo le elezioni. Vi do solo il sommario per darvi l'idea delle cose che girano. I sospetti su Orlando, il doppio gioco di Guerini, che guarda Bonaccini ma protegge Zingaretti, e Franceschini osserva, giochi francamente a questo punto poco interessanti, nel senso che vedremo che cosa succederà lunedì a tutti gli effetti. La politica torna a concentrarsi in realtà sul Covid e su quello che è stato deciso ieri dai tribunali amministrativi, da una parte appunto sulla regione Piemonte e dall'altra sulla regione Sardegna. Regione Sardegna che si è vista respingere l'ipotesi di fare test per tutte le persone che arrivano sull'isola, regione Piemonte che si è vista appunto accogliere la misurazione della febbre a scuola. Appunto la ministra Azzolina, lo ricorderete, aveva impugnato l'ordinanza, addirittura, come vi dicevo, il Corriere della Sera apre su questo e a pagina Covid, dalla pagina 2 alla pagina 6, a testimonianza, se volete, di quanto il tema stia tornando, e si mescola anche con tutto quello che avviene per esempio in Francia, dove si sono superati 10.000 contagi, o in Gran Bretagna, dove in alcune zone sono partiti dei lockdown locali. A proposito dei TAR, così inauguriamo un altro pezzo di questa rassegna stampa, fatemi andare invece su un giornale online che è l'Huffington Post. C'è un bel pezzo che ho pescato questa mattina di Stefano Baldolini che è questo: il test rapido per il Covid c'è già ed è il TAR, a testimonianza di quante volte i tribunali amministrativi siano intervenuti all'interno di questa pandemia, a volte con decisioni opposte l'una all'altra. Tarche sono oggetto di ironie, scrive Baldolini, per eccesso di decisionismo rispetto all'universo mondo e anche di attacchi durissimi. Si pensi al caso Open Arms, al conflitto col Viminale di Salvini nell'agosto dell'anno scorso. Il TAR, ma sarebbe più corretto dire i TAR, i tribunali amministrativi regionali, sono entrati prepotentemente in campo nel dirimere questioni legate al Covid-19. Nulla di anomalo, per dire, anche in Piemonte e Sardegna gli ambiti di applicazione delle sentenze sono diversi in questo caso. Non è stato così nei giorni scorsi su un altro tema di natura sanitaria, come le vaccinazioni obbligatorie all'influenza per gli over 65. Obbligatorie nel Lazio, non obbligatorie in Calabria. Il TAR del Lazio ha respinto la richiesta di annullamento presentata dal Codacons, con la quale Zingaretti sostanzialmente rendeva appunto obbligatoria la vaccinazione. Il TAR della Calabria invece ha accolto il ricorso di alcuni medici annullando l'obbligatorietà voluta dalla presidente della regione Calabria, Iole Santelli. Insomma, limitandosi a registrare una certa dose di schizofrenia, non c'è che da prendere atto che la tendenza a ricorrere al TAR anche sul Covid è un fatto. D'altro canto, lo stesso presidente uscente del Super TAR del Lazio, Carmine Volpe, aveva detto che ormai il giudice amministrativo ha tempi di decisione del contenzioso molto rapidi, quantomeno rispetto a quelli della giustizia ordinaria. Così, solo negli ultimi giorni è arrivato l'ok allo stop dell'AIFA all'utilizzo dell'idrossiclorochina per il trattamento del Covid-19, il no alla sospensione delle misure contenitive in piscine e teatri, respingendo le richieste formulate dal Franco Parenti di Milano. Ad agosto fu il TAR a fermare il ricorso dei gestori sulla chiusura delle discoteche, decisa dal ministro Speranza dopo la risalita dei contagi nei luoghi affollati. Come vedete, il TAR che interviene praticamente su tutto e ci consente quasi di stilare una cronologia della pandemia. TAR che non è, interviene, viene chiamato in causa. E visto che siamo sui temi Covid, ci sono un paio di altre cose sulle quali vorrei portarvi. Allora, la prima è l'intervista che il ministro Speranza realizza col quotidiano nazionale, il ministro della Salute, siamo a pagina 3. Nei giorni scorsi, questo è un tema che avevamo trattato, il tema era quello dei vaccini contro l'anti-influenzale. 17 milioni di dosi sono in arrivo. Per il ministro Speranza basteranno. È un'intervista lunga nella quale racconta ad Alessandro Farrugia a pagina 3 un po' tutto, come sono stati sul piano politico questi 12 mesi, cosa si attende dalle regionali. Si parla del MES, appunto, del Fondo Salvastati, ribadisce Speranza che secondo lui questi soldi andrebbero utilizzati. E poi si sofferma su questo tema, perché in realtà le notizie che ci arrivano dalle farmacie è che il vaccino antinfluenzale è difficile anche da ordinare per le stesse farmacie, difficilmente reperibile. L'ordine è di 16,7 milioni di dosi, ma in farmacia ne arriverà solo l'1,5%. Non è troppo poco. Con le farmacie, dice Speranza, stiamo lavorando in queste ore nella direzione giusta per aumentare il numero dei vaccini disponibili nei loro esercizi. Vedremo cosa succederà. Alcune cronache ci raccontano di farmacie che stanno iniziando a approvvigionarsi dall'estero di vaccini antinfluenzali per poterli avere a disposizione per i clienti, e speriamo che non si verifichino scene come quelle che abbiamo visto all'inizio della pandemia con le mascherine, con costi che lievitano in maniera esagerata. Michele Bocci invece sulla Repubblica, a proposito di sanità, ci porta su un altro fronte che è preoccupante. L'allarme che viene lanciato ai chirurghi: i malati non si curano per paura del virus, sale operatorie e reparti oncologici sono ancora a rilento dopo il lockdown, meno accessi anche ai pronto soccorso, e i medici che dicono siamo preoccupati. Il traffico. Questione Covid e questione scuola. Vi vorrei portare qua sul Sole 24 Ore, che ancora una volta raccoglie il commento del direttore della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto. E questo commento si sofferma sul fatto che tutti gli studenti hanno sofferto il lockdown in termini di apprendimenti, competenze, socialità. Non tutti però nella stessa misura. Quelli con disabilità hanno probabilmente sofferto di più. La percezione è confermata anche dai 3.200 docenti che in aprile, rispondendo a un questionario di Fondazione Agnelli con le università di Bolzano, Trento e l'UMSA, segnalavano l'esclusione dalla didattica a distanza del 36% degli allievi disabili. Sarebbe stato quindi fondamentale che alla ripresa della scuola gli studenti con disabilità, come gli altri, più degli altri, trovassero fin dal primo giorno tutti gli insegnanti di sostegno al loro posto. Non è andata così. Anzi, fra le molte di questo inizio di anno scolastico, l'emergenza per l'organico di sostegno è la più grave. E dunque c'è il titolo di questo pezzo di Andrea Gavosto, questo commento di Andrea Gavosto a pagina 23 del Sole 24 Ore, che è: la scuola ha tradito gli studenti più fragili. Cosa ancora? Beh, sicuramente tutta la vicenda della quale sì, abbiamo in parte accennato prima, del reddito di cittadinanza andato alle famiglie dei fratelli bianchi, e qua si possono segnalare un paio di fronti, direi. Adesso vi vado a ripescare anche il giornale che porta con sé l'editoriale del direttore Alessandro Sallusti esattamente su questo, che è un attacco duro in sostanza al Movimento 5 Stelle, e connette Sallusti in quest'ambito la vicenda dei fratelli bianchi e quella del referendum. Cosa insegnano i fratelli bianchi sul referendum? Uno spunto interessante, cioè anche uno spunto di discussione interessante. Antonio Troise invece sul Quotidiano Nazionale a pagina 9 si ferma più in generale sulle poche verifiche che ci sono su chi truffa lo Stato con il reddito di cittadinanza, e parla di due pesi e due misure. Da una parte il gran popolo dei contribuenti, tartassati e vigilati a vista dalle imprese alle partite IVA, dagli artigiani ai lavoratori dipendenti, sottoposti quotidianamente ad una raffica di controlli e di adempimenti, con lo sguardo indiscreto del fisco che arriva a scrutare persino quello che postano sui loro profili social per scoprire se veramente fino all'ultimo euro di tasse nei forzieri, se versino fino all'ultimo euro di tasse nei forzieri dell'erario. Dall'altro invece l'esercito dei sussidiati e graziati, a cominciare dai percettori del reddito di cittadinanza, che incasseranno anche uno stipendio modesto, ma in compenso sono pressoché sicuri che non avranno mai a che fare con la macchina dei controlli e delle verifiche. In realtà poi controlli e verifiche ce ne sono, forse non così tanti quanti ce ne vorrebbero. Così appunto Antonio Troise a pagina 9 del Quotidiano Nazionale. La politica, come vi dicevo, c'è poco in questa giornata preelettorale. Tutti i soliti retroscena, un racconto, la prima pagina di Repubblica ci racconta di un dibattito, no scusate, adesso vi vado a pescare su quale quotidiano, no scusate, sulla Stampa, la prima pagina della Stampa, che dice che Di Battista vorrebbe far cadere il governo Conte. Qua, come vedete, siamo pieni di retroscena ancora. Vi citavo quello del Foglio firmato da Valentini con il lunedì del PD, il lunedì del Movimento 5 Stelle, con Di Maio che si intesterà il referendum e lascerà la grana regionale a Crimi, e Di Battista che sarà in agguato. Quindi questo è un po' il quadro dai partiti, mentre il Foglio dedica anche con Salvatore Merlo e Maurizio Crippa due lunghi pezzi alla Lega, Maurizio Crippa sulla parte che riguarda l'inchiesta sui commercialisti e Salvatore Merlo che invece si sofferma sulle difficoltà di Matteo Salvini nell'organizzazione del partito. E inizia con una citazione di Umberto Bossi, che se volete un po' la frase del giorno, è una frase del 2019, non sappiamo se l'abbia detta proprio così, conoscendo Umberto Bossi, però ci fidiamo di Salvatore Merlo. È questa: senza l'organizzazione i voti sono come una bibita gassata, si trasformano nel propellente di un fenomenale ruttore. tutto nell'universo. Queste parole di Umberto Bossi, alcuni anni fa nel cortile della Camera, forse aveva già capito tutto, utilizzava il suo spirito greve ma efficace per spiegare con metafora eolica, al più giovane cronista, quel fenomeno nascente ma ancora lontano dal 30% del 2019 che si chiama Matteo Salvini. E già allora l'Umberto sembrava aver intuito ciò che sempre più pochi anni dopo, cioè oggi, mormorano quasi tutti i leghisti, mentre osservano gli inciampi e le contorsioni del loro segretario. Non azzecca le nomine in Rai, dove tutti stanno passando con la Meloni, così come nelle partecipate, nei ministeri, nel sottopotere romano e persino all'interno del suo partito. Un fronte di preoccupazione che arriva ovviamente anche alle elezioni amministrative. Vedremo come andranno le elezioni amministrative e questo sarà, sarà un segnale, se vogliamo anche uno spartiacque per la segreteria di Matteo Salvini, per la Lega di Matteo Salvini. Vorrei chiudere perché c'è stata una grande discussione su Twitter, una grande levata di scudi contro il manifesto che è già stato diffuso ieri e l'informazione che il 15 ottobre uscirà nei cinema questo film di Enrico Vanzina, si chiama Lockdown all'italiana, l'immagine con Martina Stella, Ricky Memphis, Ezio Greggio in una foto, con camicia e mutande che parla al telefono nella locandina, per darvi l'idea. Apriti cielo, di questa tragedia non si può ridere, o forse è troppo presto per ridere. Ci si dedica nella sua rubrica sul sito L'Inchiesta, Guia Soncini nella sua rubrica L'Avvelenata. Ebbene, il titolo già dice molto: l'invidia dei twittaroli che sognavano di fare un film sulla quarantena, mentre Vanzina lo ha già diretto. E ci legge, ci riporta Guglia Soncini un po' di tweet che sono usciti ieri. Non ho visto film ironici sull'11 settembre o su altre tragedie, non c'è un cazzo da ridere o ironizzare su ciò che abbiamo passato. O ancora, mi stupisce che nel 1986 non abbiano fatto uscire tipo un Alvaro Vitali con Pierino a Chernobyl. In questo universo etico basato sul principio, scrive Guglia Soncini, finisci la verdura perché i bambini muoiono di fame in Africa, lo scandalo è che Enrico Vanzina, gli anni Ottanta, il capitalismo, la borghesia burina, abbia osato fare una commedia, roba da ridere invece che farci la morale dolente, in cui Martina Stella ed Ezio Greggio, sebbene scoperti come adulteri dai coniugi, si ritrovano costretti nelle rispettive case matrimoniali. Oltraggio, si sa che siccome là fuori i camion trasportavano bare, allora la gente aveva messo di far sesso, detestarsi e tradirsi. Insomma, racconta tutto e poi chiude Guglia Soncini così, ma tutto questo è irrilevante. Conta solo quella storia meravigliosa di convivenza forzata e il fatto che mentre noi ci baloccavamo con l'idea di scriverne, Enrico Vanzina aveva già scritto, girato, montato. Conta solo che, come diceva un irrilevante commediola ad un tal Monicelli, il genio è velocità d'esecuzione. Con questa citazione di Amici Miei chiudiamo la rassegna stampa GR24. Ci ritroviamo tra un attimo con il nostro appuntamento con Paolo Mieli e poi alle 8.35 parleremo di referendum. A tra poco. Per le aziende e professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.